Ok, via studio, qui con Raffa, Arendus e Tron nel posto. E il mio 2MC, yo! Non penso ad una rivolta imminente, sopporto la prepotenza della gente sommossa, quella che tengo nella mente, la posta in gioco si fa sempre più carente. Non penso ad una rivolta imminente, sopporto la prepotenza della gente sommossa, quella che tengo nella mente, la posta in gioco si fa sempre più carente. Ti blocco come il blaster, sono un ignaro sognatore su una Ducati Monster. Posseggo miti stampati su vari poster. Voi rapper in vano, affitto sette vani per coppiette di poser contro sette sataniche o cosche. Niente premio Nobel, uomo con le palle come Fidel in cerca di gnocche, come Michel. Spam nei messaggi mail della Faber-Castell. Ad occhio ragazzine troie elettrici di manga, hanno la mania di saggezza come Gandalf. Ok, belle miss, siete soltanto bitch. Al top, fighette con il vurrice di jeans della Richmond. Pongono l'altra guancia, non mi si fila. Penso che pongono qualcosa che sia paragonabile alla figa. Paragonabile alla stessa figa. Sì, non penso ad una rivolta imminente, sopporto la prepotenza della gente sommossa, quella che tengo nella mente, la posta in gioco si fa sempre più carente. Non penso ad una rivolta imminente, sopporto la prepotenza della gente sommossa, quella che tengo nella mente, la posta in gioco si fa sempre più carente. Non mi importa cosa suona nel tuo stereo, man, perché se offline come il telefonino aereo, beh, non mi importa cosa pensi del mio ego, puoi infamarmi in tutti i modi, ma il cazzo se io mi piego. Offendi la cultura hip hop perché sei un fottuto emo, controllato dal popolo come Romolo e Remo. Premo il pulsante delle decisioni, sbaglio se mi rinnego, dico tante cazzate per dire il vero. Siamo quattro tipi bianchi alla ricerca di quattro bianchi per ubriacarci, perché stai a giudicarci? E soprattutto mettiamo in gioco le nostre arti, i nostri arti, le nostre parti d'attore, perché della vita di strada non siamo i promotori, non abbiamo motori, ma siamo consapevoli delle nostre azioni. Imparate da questo, coglioni. Non penso ad una rivolta imminente, sopporto la prepotenza della gente sommossa, quella che tengo nella mente, la posta in gioco si fa sempre più carente. Non penso ad una rivolta imminente, sopporto la prepotenza della gente sommossa, quella che tengo nella mente, la posta in gioco si fa sempre più carente.